La Turchia bussa alle porte d'Europa. Il commissario per l'allargamento europeo, Günther Verheugen, ha iniziato a preparare il documento conclusivo circa la maturità europea della Turchia. Se la valutazione fosse positiva, quasi nulla potrà evitarne l'accesso alla comunità europea. In Europa ci sono 3,6 milioni di turchi, di cui 2,6 milioni solo in Germania. Di questi, il 70% vota per la coalizione di governo, naturale quindi che Gerhard Schröder sponsorizzi l'apertura. Le prestazioni economiche turche però sono modeste. Il PIL pro capite non raggiunge un terzo della media europea. Si calcola in compenso che la popolazione turca, attualmente di 67 milioni di persone, sia destinata a crescere del 20%. Se la Turchia avesse quindi accesso all'Unione Europea, sarebbe al contempo il paese più povero, ma anche quello più influente d'Europa. Il premier Erdogan si erge a baluardo democratico. A furia di riforme ha limitato i poteri della casta militare, ha abolito la pena di morte, ha promosso il rispetto delle minoranze. La giustizia è stata riformata e la tortura viene combattuta. Persino il conflitto cipriota pare arrivare a una sua pacifica conclusione. La scrittrice curda Leyla Zana è tuttora imprigionata a causa della sua attività politica ed è proprio lei in una lettera al presidente Cox ad affermare di preferire essere imprigionata in un paese che abbia la speranza di entrare in Europa piuttosto che libera in un paese escluso. L'integrazione della Turchia nell'Unione Europea promuoverebbe definitivamente un'Europa laica, ridimensionando tutte le forze religiose. Che ne sarebbe della cristianità storica se l'Europa diventasse la patria di 60 milioni di musulmani? Erdogan in materia fa notare come i simboli religiosi siano da evitare. In uno Stato laico con scuole laiche, ebrei, cristiani e musulmani, la religione è un fatto privato, ha affermato con buona pace degli italici crocifissi. Da Zurigo Tito Gandini per Reporter Associati, Amisnet Radio.